Europa 24. La crisi ucraina in primo piano, l'avvicinamento di Kiev all'Unione Europea dovrà continuare sulla base di un pacchetto di riforme, in primis quella costituzionale, entro settembre 2014. A stilare l'elenco delle raccomandazioni è l'ultimo rapporto annuale dell'Unione Europea sulle relazioni con i paesi partner dell'Europa orientale e del sud del Mediterraneo. Il rapporto europeo chiede all'Ucraina di assicurare che il processo di riforma costituzionale sia portato avanti in modo inclusivo e trasparente, è completato appunto entro settembre 2014. Kiev dovrà inoltre fare i primi passi per creare un sistema elettorale affidabile ed uniforme per le elezioni. Bruxelles lavora ad una serie di proposte per incentivare il credito alle piccole e medie imprese. Sentiamo. La Commissione ha annunciato oggi una serie di linee guida per mettere mano al problema del finanziamento a lungo termine dell'economia europea. La questione è sentita in molti paesi. Da un lato, a causa della recessione, le banche sono diventate molto caute nel concedere prestiti. Dall'altro, i governi sono spesso oberati da elevati debiti pubblici. Per ovviare a questi problemi, l'esecutivo comunitario ha proposto di ridare slancio al mercato delle cartolarizzazioni, di promuovere l'uso dei fondi pensione, di rivedere le regole sul fronte assicurativo per meglio utilizzare la loro liquidità. Secondo la Commissione europea, l'Unione dovrà investire da qui al 2020 1.000 miliardi di euro in nuove infrastrutture. Senza facilitare i finanziamenti a lungo termine, a rischio è il processo di modernizzazione del continente. L'iniziativa dell'esecutivo comunitario è tanto più significativa che troppo spesso cittadini, governi e imprese sono concentrati sul breve termine, dimenticando colpevolmente le sfide del lungo periodo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La Commissione europea ha aperto un'indagine sugli interventi pubblici a favore di Trenitalia e di altre società del gruppo FS. Lo scopo è capire se alcune compensazioni per obbligo di servizio pubblico e trasferimento a titolo gratuito di asset nell'ambito del mercato italiano del trasporto ferroviario di merci siano compatibili con le norme europee. L'azienda si è detta pronta a collaborare, chiarendo però in una nota che le compensazioni ricevute dallo Stato per i contratti di servizio pubblico per il trasporto merci sono state nettamente inferiori ai costi sostenuti da Trenitalia per lo svolgimento del servizio. Ad un provider internet può essere ordinato di bloccare l'accesso dei suoi abbonati a un sito web che viola il diritto d'autore. Lo ha stabilito una sentenza della Corte europea. Le misure però devono essere proporzionate e garantire un giusto equilibrio fra la libertà di informazione degli utenti e il diritto di proprietà intellettuale. Ed ora un'iniziativa della Commissione europea per avvicinare cittadini alle istituzioni comunitarie. Hanno iniziato un anno e mezzo fa, quando ancora non incombevano le elezioni europee. 51 eventi in tutta Europa per far sentire le persone più vicine alle istituzioni di Bruxelles. Ed è qui che oggi si svolge l'evento conclusivo. 180 cittadini stanno dibattendo proprio in questi minuti sulle formule per il rilancio economico, sui diritti e la solidarietà tra paesi. Considerando la totalità degli incontri tenuti in tutta Europa, sono state 100.000 le persone coinvolte, 20.000 fisicamente presenti, altre 80.000 attraverso l'interazione di internet e dei social media. Questa mattina sono stati creati dei gruppi di dibattito per individuare le questioni urgenti da risolvere. Alle domande risponderanno questo pomeriggio circa 10 commissari europei, tra cui anche il presidente Barroso. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.